Atl. Mentre ero a casa del missionario, in attesa di trovare qualcuno che mi portasse a Cha Atl, il missionario assoldò una contadina, senza caviglie e senza senso dell'umorismo, per stare lì con me. Doveva tenermi compagnia ed evitare lo scandalo, perché la moglie e la famiglia del missionario erano via. La ragazza aveva abbastanza buon cuore, nascosto in un corpo da bue. Si chiamava Maria. Jimmy, un indiano Haida, aveva una buona barca e accettò di portarmi a Cha Atl, così lui e sua moglie Luisa, Maria e io partimmo tutti in barca. Io portai il mio cane da pastore e Luisa il suo gatto. Facemmo una breve sosta su un'isoletta dove c'erano alcuni pali totemici e un forte odore causato da tutti i pesci cane gettati sulla spiaggia e putrefatti al sole. Poi abbiamo proseguito fino a raggiungere la lunga e stretta insenatura di Skidegate. Le punte dei giovani pini freschi formavano cerchi di verde pallido dall'ampia base di ogni albero fino alla cima. Sembravano moltitudini di signorine in crinoline che scendevano lungo la riva. La giornata era calda e immobile. Le aquile volteggiavano nel cielo e le focene ci seguivano lungo l'insenatura finché non arrivammo al basso fondale. Si immergevano e risalivano dall'acqua, facendo un gran chiasso su entrambi i lati della nostra barca. I loro musipiatti sbucavano dall'acqua e le loro code schizzavano furiosamente. È stato emozionante osservarle. Jimmy stava tutto il tempo a cercare di tenere la barca nel canale lontana dalle secche. Luisa era al timone, mentre lui era sdraiato a faccia in giù sul bordo della barca a scrutare l'acqua e a fare segnali a Luisa con le braccia. Nel tardo pomeriggio Jimmy spense il motore e disse: "Ascolta". Poi sentimmo un rumore tremendo e un ruggito. Era il rumore della costa occidentale delle isole Queen Charlotte. Ogni minuto diventava più forte a mano che ci avvicinavamo all'imboccatura dell'insenatura. Sembrava di essere nelle fauci di qualcosa di troppo grande e terribile anche solo per avere un nome. Non ci colpì in pieno perché svoltammo a Cha Atl poco prima di arrivare all'imbocco, quindi non vedemmo lo spaventoso oceano ruggente. I marinai dicono che questa è una delle acque peggiori del mondo e una delle coste più cattive. Cha Atl era abbandonata da molti anni. L'unica casa rimasta era del tutto inabitabile. Gli alberi ne avevano divelto il tetto e i fianchi. Sotto il sole cocente la vegetazione rigogliosa puzzava. Jimmy calò la canoa e ci fece scendere a terra, me e il mio cane Billy. Lasciò la barca a gas ancorata al largo. Dopo avermi depositata sulla spiaggia, tornò a prendere Luisa, Maria e le altre cose. Mentre stavo lì, un terribile boom, boom, boom sembrava sommergere ogni altra cosa. Faceva sembrare debole e paurosa persino la foresta. Forse se non avessi avuto il peso del rumore interamente nelle mie orecchie, non mi sarebbe sembrato così spaventoso. Quando gli altri scesero a terra, il rumore infatti sembrò più sopportabile. Nei pali di Chaatl, Haida, c'erano molti bei totem, tragici e feroci. Il loro legno era scolorito, ma sembrava verde grazie ai muschi che crescevano nelle fessure. I ciuffi di erba sulle teste delle figure spuntavano come capelli ruvidi. I volti umani scolpiti sui totem erano severi e torvi, quelli animali feroci e forti. Sui pali erano raffigurate anche cose soprannaturali. Tutto ciò che riguardava Cha Atl era così vasto e profondo da farmi rimpicciolire. Quando fu troppo buio per lavorare, tornai dagli altri. Erano riuniti intorno a un fuoco sulla spiaggia. Non si parlava mentre si mangiava. Bisognava gridare per farsi sentire sopra il frastuono delle onde dell'oceano. L'odore dell'oceano era molto forte. Jimmy aveva appeso un'estremità della mia tenda a un totem che sporgeva sulla sabbia. I grandi becchi intagliati dell'aquila e del corvo toccavano quasi la tela. Jimmy, non pensi che quel palo potrebbe caderci addosso nella notte? Oh no, è inclinato così da molti, molti anni. Il gatto bianco di Luisa sembrava un fantasma con la luce del fuoco riflessa negli occhi. Sì, Cominciammo a parlare di fantasmi e di cose soprannaturali, di animali che parlavano come esseri umani, dei corpi dei grandi capi che erano rimasti nelle bare, nei loro villaggi, fino a puzzare e a provocare epidemie di vaiolo, storie che la nonna di Luisa le aveva raccontato. Quando guardammo il quadrante dell'orologio, alla luce del fuoco, vedemmo che era tardi. Luisa andò alla tenda e rise ad alta voce e chiamò: «Venite a vedere!» Le pareti della tenda, i nostri letti e le nostre coperte erano pieni di grandi lumache gialle. Con dei bastoni le infilzammo e le ammucchiammo in una padella. Loro tiravano fuori le corna, appiattivano il muso, arricciando le spesse labbra che correvano lungo i fianchi e raggomitolandosi su se stesse. Le gettammo nella boscaglia. Luisa appese la lanterna al palo della tenda e disse: «Io e Jimmy ce ne andiamo subito». Andare? Sì, alla barca. Andare là fuori e lasciarci sole. Non avete una tenda? Jimmy disse di averla dimenticata. Ma Jimmy non vuole dormire a Chatle. Troppi fantasmi. E noi? Ah, ci sono degli orsi in giro, ma non credo che vi daranno fastidio. Buonanotte. La loro lanterna oscillava sull'acqua, poi si spense. E là fuori non ci fu altro che il ruggire dell'oceano. Ci sdraiammo sul letto di giunchi che gli indiani avevano preparato per noi e ci mettemmo la coperta addosso. Maria disse: «È terribile, sono spaventata a morte». Poi si girò su se stessa e si addormentò, russando energicamente. Le sue mani e i suoi piedi pesanti sbattevano da una parte e dall'altra. Il pensiero di quelle caviglie monoblocco dal polpaccio al piede mi faceva rabbrividire. La nostra lanterna chiamava a zanzare, così mi alzai e la spensi, poi uscii dalla tenda. Dove prima c'era il mare, ora c'era fango, un'ampia distesa grigia con rocce nere e le loro ombre ancora più nere disseminate qua e là. La luna stava sorgendo dietro la foresta, una luna luminosa che creava ombre dei totem sulla sabbia. Un gufo strillò e poi un uccello marino. Riuscire a sentire questi suoni vicini dimostrava che le mie orecchie dovevano essersi abituate al boato delle onde. A poco il ruggito divenne sempre più debole e il silenzio più forte. Le ombre dei pali totemici sulla spiaggia sembravano avere una massa come i pali stessi. L'alba e il mare arrivarono insieme. La luna e le ombre erano scomparse. L'aria era frizzante e salata. Raccolsi l'acqua che gocciolava da una roccia e mi lavai. I totem si ergevano tranquilli nell'alba. La West Coast era quasi tranquilla. Il silenzio aveva inghiottito il fragore e a Chaatl era arrivato il mattino. Mary fa il bucato. Quando ero bambina, Mary veniva a lavare per sua mamma ogni lunedì. Il lavatoio era dall'altra parte del cortile rispetto alla porta della cucina, una stanza lunga e stretta. Il lato sud era costituito da una grata aperta. Quando il vapore vi si riversava, sembrava che il lavatoio fosse in fiamme. Nel lavatoio c'era una stufa, una grande caldaia ovale di rame si trovava sopra la stufa. C'erano un lavandino e una pompa e una lunga panca su cui erano appoggiate le vasche di legno. Mary stava in piedi su un blocco di legno mentre lavava, tanto era piccola. Le sue braccia andavano su e giù sull'asse per lavare e la schiuma rimbalzava nella vasca. L'odore del bucato usciva dalla grata insieme al vapore e anche il rumore dello sfregare e strofinare. I colori accesi del vestito stampato, del viso bruno e dei capelli neri di Mary impallidivano per il vapore che le scivolava addosso dalle vasche. Aveva delle splendide trecce di capelli che andavano dalla fronte lungo tutta la schiena. I capelli erano forti e folti. Le trecce iniziavano dietro ogni orecchio e in fondo si assottigliavano e venivano legate insieme con uno spago. Formavano un anello sulla schiena che sembrava una splendida e robusta maniglia per sollevare la piccola Mary. Il suo grande scialle a quadri era appeso a un chiodo mentre si lavava. Il viso di Mary era scuro, rugoso e gentile. Mia madre mi disse: «Attraversa il cortile e dia a Mary Chanko Mochkamok, Mary». «Che cosa significa? Vieni a cena?» «Madre, ma Mary è un'indiana». «Sì, figlia, corri, Mary avrà fame». Chaco, mochkamuk, Chaco, mochkamuk, ripetevo in continuazione mentre correvo attraverso il cortile. Quando dissi a Mary Chaco Muchkamuk, la piccola donna alzò lo sguardo e rise di me, proprio come una bambina ride di un'altra bambina. Il lunedì, a mezzogiorno, ero solita passare di qui per poter andare a dire Chaco Muchkamuk, Mary. Mi piaceva vederla mentre si sciacquava le braccia nella vasca e si asciugava le braccia sulla gonna larga mentre andava in cucina. E poi la guardavo mentre tirava fuori il grande cesto e saliva sulla punta dei piedi nudi per stendere il bucato sul filo, con la bocca piena di mollette da bucato, di quelle vecchie dritte senza molla, coi pomelli di legno rotondi in cima che le facevano sembrare una fila di bamboline danzanti e svolazzanti sui vestiti vuoti. Da quando avevo memoria, Mary non aveva mai mancato di venire un lunedì e poi all'improvviso non venne più. Chiesi: «Dov'è Mary che lava?» «Puoi venire con me a trovarla», rispose mia madre. Prendemmo le cose in un cesto e andammo in una buffa casetta in Fairfield Road dove viveva Mary. Non era rimasta nella riserva dove vivevano gli indiani Songhees. Forse apparteneva a una tribù diversa, non lo so, ma voleva vivere come i bianchi. Era cattolica. La casa di Mary era povera ma molto pulita. Lei era a letto. Era molto, molto magra e tossiva in continuazione. Il bruno della sua pelle era scolorito, le sue dita erano come artigli di un giallo pallido, non somigliava affatto alle mani scure che avevano steso i panni sul nostro filo. Solo i suoi capelli neri erano uguali e i suoi occhi gentili e stanchi. Era molto contenta di vedere me, la mamma. E mia madre disse: «Povera Mary!» e le accarezzò i capelli. Un uomo alto con un lungo vestito nero entrò nella casa di Mary. Portava un filo di perline con una croce intorno alla vita. Si avvicinò al letto e parlò a Mary e a mia madre, e io me ne andai. Quando fummo di nuovo fuori, la mamma disse a bassa voce: «Povera Mary!» Succo. Faceva incredibilmente caldo. Noi tre ragazze uscimmo dal negozio mangiando ciascuna una pera succosa. C'erano 10 centesimi di costo di trasporto per ogni libra di merce che arrivava sulla strada del Caribù. La frutta pesava. Tutto arrivava a dorso di mulo. Il primo morso a quelle Bartlett era inebriante, il succo zampillava sui denti. Stavo valutando il punto migliore della pera a cui dare il mio morso quando vidi lo sguardo del dottor Cabbage sulla mia pera, che se la divorava con gli occhi. Ero sul gradino del negozio, quindi potevo guardarlo negli occhi. Erano strizzati e asciutti. La pelle delle mani e del viso era raggrinzita, i suoi vestiti non erano altro che un mucchio di brandelli appesi a un bastone secco. Credo che il vento avrebbe potuto scuoterlo come una foglia morta e che nella vita del dottor Cabbage non fosse mai successo nulla di succoso. «È una buona mela?» Dopo avermelo chiesto, la sua lingua asciutta si leccò lentamente le labbra e tornò nella bocca più calda e asciutta di prima, per aver pensato al frutto. «Ti piacerebbe assaggiarla?» Nei suoi occhi strizzati si accese un bagliore. Aspirò l'aria calda nella gola con un rantolo. Tese la mano per prendere la pera e poi diede un profondo e avido morso accanto al mio. Il succo gli colò lungo il mento, la sua lingua saltò fuori e lo acchiappò al volo, sorseggiò il succo che colava dal buco che i nostri morsi avevano fatto, leccò le gocce che scorrevano sulla buccia, poi, con gli occhi ancora puntati sulla pera, me la porse per riprenderla. «No, è tutta tua!» «Io la mangio tutta?» «Sì!» Socchiuse gli occhi sul frutto come se non riuscisse a credere alle proprie orecchie, che tutta la pera che aveva in mano gli appartenesse. Poi diede un morso dopo l'altro, facendo rotolare ogni boccone lentamente intorno alla bocca, succhiando rumorosamente ogni goccia di succo. Mangiò anche il torsolo, leccò il picciolo e poi le dita come un gatto. Hias, Kloshe, molto bene, disse e trottò su per la collina come se le sue articolazioni fossero state oliate. Alcuni giorni dopo ebbi occasione di cavalcare attraverso il villaggio indiano. Tutti i pony erano occupati. L'unica cavalcatura disponibile era una vecchia cavalla che trascinava ogni passo e che se ci si fermava un istante si addormentava di colpo. I ragazzi indiani stavano giocando a calcio nella strada del loro villaggio. Mi accostai per chiedere la direzione. La palla rimbalzò esattamente sotto lo stomaco della mia cavalla. L'animale si era già addormentato e non se ne accorse. Da una capanna uscì un piccolo uomo come un vortice rabbioso. Era il dottor Cabbage. Confiscò il pallone e rimproverò i ragazzi così furiosamente che l'intera squadra scomparve, tanto da far pensare che non ci fosse più un solo ragazzo al mondo. Posando la mano sul mio destriero addormentato, il dottor Cabbage mi sorrise. «Coraggioso, cavaliere!» disse. «Scucum, tum tum, buon cuore!» Ringraziai il dottor Cabbage per il complimento e per il suo coraggioso salvataggio. Svegliai la mia cavalla con grande difficoltà e imparai che l'onore per il coraggio dimostrato a volte era molto facile da conquistare. Amici, ora abbiamo una bella casa. Vorremmo che tu stessi con noi quando verrai. Il mio terzo patrigno mi ha dato la casa quando è morto, era un bravo uomo. Vorrei stare con te nella tua casa, scrissi di rimando. Luisa mi raggiunse sulla piana fangosa. Dovette camminare per mezzo miglio perché la marea era bassa. Indossava stivali di gomma e ne portava un altro paio in mano per me. I suoi due figli, piccoli e scalzi, portarono le mie borse sulle loro spalle. I saluti di Luisa furono cordiali e adeguati alla dignità della casa del suo terzo patrigno. Era una bella casa, con giardino e veranda. C'era una grande cucina, un soggiorno e due salottini. Quello posteriore fu dato a me. Aveva un bel letto d'ottone con copriletto e copricuscini ricamati e un piumino. C'era anche un bel comò sul quale si trovava una candela in una bottiglia di birra e un piatto di latta per mettere le forcine dei capelli. C'era molta luce e aria nella stanza perché la tenda non si abbassava e la finestra non si chiudeva. Una grande cassapanca al centro conteneva i vestiti migliori di tutta la famiglia. Tutti si vestivano in quella stanza per andare in chiesa la domenica mattina. Tra la mia stanza e la sala d'ingresso c'era un arco con appese corte tende viola di peluche. Se la sera arrivava qualche visitatore per la musica e si tratteneva troppo a lungo, Luisa diceva: «Ora dovete andarvene, la mia amica vuole andare a letto». Il salottino esterno era dedicato alla musica. C'era un pianoforte a rulli, uno strumento immenso con un volume che faceva tremare la casa, un organo, un flauto e alcune armoniche. Quando il mobile per i rulli musicali, la panca, un grande divano, una lampada a stelo con paralume e alcune sedie a dondolo entrarono nella stanza, rimase a malapena spazio per le persone. C'era pure una teca di vetro con dentro i regali di nozze di Luisa e Jimmy e tutti quelli per i loro anniversari successivi. Erano sposati da molto tempo, quindi la teca era abbastanza piena. La cucina era confortevole, con una bella stufa, un lavandino e un tavolo rotondo per mangiare. Luisa era stata cuoca in un conservificio e cucinava bene. I visitatori entravano spesso per guardarci mangiare, si infilavano in cucina e sedevano sulle sedie contro il muro e noi continuavamo a mangiare tranquillamente. La signora Green, la madre di Luisa, veniva di frequente. La casa di Luisa era la migliore di tutto il villaggio. Di notte i ragazzi di Luisa, Jim e Joe, aprivano una strana porticina nel muro del soggiorno e sparivano. I loro passi risuonavano sempre più in alto. Uno scricchiolio a ogni passo, poi più nulla. Poco dopo anche Jimmy e Luisa sparivano attraverso la stessa porticina, solo che i loro passi scricchiolavano più forte. La casa era allora abbastanza silenziosa, solo il sospiro delle onde sulla riva. La madre di Luisa, la signora Green, era una donna straordinaria. Si aggrappava vigorosamente alle vecchie abitudini indiane, cosa che a volte metteva in imbarazzo la figlia. Nel bel mezzo della conversazione, l'anziana signora sputava sulla catasta di legno dietro la stufa. Quando Luisa vedeva che stava per farlo, correva con un giornale, ma raramente arrivava in tempo. Si vergognava anche un po' del fatto che la madre fumasse la pipa, ma Luisa era molto rispettosa con sua madre e non la rimproverava mai. Un giorno passavo davanti alla capanna del villaggio dove viveva la signora Green. Vidi l'anziana donna in piedi, scalza, davanti a un tronco pieno di alghe marroni, secche e dure. Erano ricoperte di piccole uova grigie. Luisa mi disse che si trattava di uova di pesce molto apprezzate dai giapponesi. La signora Green sapeva dove i pesci deponevano le uova nei letti di alghe e uscì con la sua canoa per prenderne. Dopo averle essiccate, le spediva al negozio di Prince Rupert, che le spediva in Giappone, pagando alla signora Green con delle merci per lo stesso ammontare di valore. Dopo che la signora Green ebbe controllato il letto di alghe kelp, Luisa ed io ci sedemmo sul baule contenente il raccolto e lei lo legò e bloccò le chiusure. Poi mettemmo il baule sul piccolo carro dei ragazzi e lo trasportammo fino al molo. Quindi tornammo a casa per scrivere una lettera al negoziante di Prince Rupert. Luisa prese la penna e l'inchiostro e le due teste, quella nera sua e quella grigia di sua madre, si chinarono sul tavolo della cucina. Avevano il catalogo del negozio. Era consunto, morbido e nero. La signora Green aveva meditato tutto l'anno cosa comprare con i soldi della bottarga di pesce. A Luisa la lingua continuava a sbucare dall'angolo della bocca mentre si impegnava a cercare le parole. Le trovava più difficili da scrivere che da dire in inglese. Sembrava che la lingua in movimento le rendesse più facile scrivere sulla carta. «Posso aiutarti?» chiesi. Luisa spinse il foglio verso di me dall'altra parte del tavolo con un sospiro di sollievo, appallottolando sul il suo foglio scarabocchiato. Si riferirono più e più volte al catalogo, indicandomi cosa scrivere. Avevo già scritto uno scialle a quadri con frange, un pezzo di stoffa stampata rosa, un fazzoletto di seta giallo, generi alimentari, ma l'anziana donna continuava a girare le pagine del catalogo e così pure Luisa, chiedendo: «È tutto quello che ti serve, mamma?» Le dita dell'anziana continuavano a scorrere furtivamente le pagine con desiderio. Terminai la lettera e lasciai spazio ancora per qualcos'altro nella lista. «C'è qualcos'altro che vuole, signora Green?» «Sì, io questa», disse con uno sguardo di sfida a Luisa. Era una pipa da tabacco brevettata con un piccolo coperchio di latta. Luisa si vergognò. «Che bella pipa, signora Green, dovrebbe averla», dissi. «Mi piace il fumo», confessò la signora Green ammiccando a Luisa. «Anche a me, signora Green». «Il missionario dice che le signore non fumano», ci informò Luisa, dubbiosa. Quella sera la vecchia signora Green si sedette accanto alla stufa, sbuffando allegramente dalla sua vecchia pipa di argilla. Si chinò in avanti e mi diede un colpetto al ginocchio. «Questa pipa è buona», raccontò. «Quando ero piccola piccola, la mamma mi mandava spesso a prendere la pipa. Io la mettevo in bocca per mantenere la brace accesa e così iniziai a fumare». Aveva un viso allungato e pieno di rughe. Quando parlava in inglese, le grandi rughe intorno agli occhi e alla bocca erano profonde e strette, e altre piccole rughe come puntini le attraversavano. La candela nella mia stanza dava una luce appena sufficiente a far risaltare l'oscurità. La luce del mattino mi mostrò il quadro che si trovava di fronte al mio letto. Si trattava di tre bambini molto piccoli. Era strano come potessero stare così dritti, senza alcun sostegno a quell'età. Avevano vesti ricamate, lunghe il triplo di loro, ed espressioni sorprendenti sui loro volti. I loro sei occhi erano chiusi, come buste leccate. I bambini evidentemente avevano una volontà tremenda e avevano deciso di non aprire mai gli occhi. I loro visi erano come quelli di persone molto anziane. Le loro rughe grintose sembravano catturare e incatenare il mio sguardo, tanto che non riuscivo a distoglierlo. Fissai e fissai. Luisa si accorse che stavo fissando. «Di chi sono quei bambini?» chiesi. «I tre gemelli della mamma», rispose lei con aria di importanza. Vuoi dire che erano i figli della signora Green? Sì, gli unici gemelli tripli mai nati sulle isole Queen Charlotte. E sono morti? Uno è morto, gli altri due non sono mai vissuti. Abbiamo conservato quelli già morti finché non è morto anche quello vivo, poi li abbiamo dipinti tutti insieme. Ogni volta che vedevo quella straordinaria donna anziana con la sua zappa e la sua vanga partire con la sua canoa per coltivare le patate ovunque riuscisse a trovare un pezzetto di terra sulle isolette circostanti, pensavo ai tre gemelli. Se fossero vissuti e avessero ereditato la sua forza e la sua determinazione, avrebbero potuto scuotere le isole Queen Charlotte. La domenica Luisa aprì la cassapanca nella mia stanza e vestì la sua famiglia. Poi andammo tutti in chiesa. Il missionario e sua sorella ci strinsero la mano e ci invitarono a prendere il tè il giorno dopo. Luisa non poté andarci, ma io sì. Il missionario disse: "È un bene per gli indiani avere un bianco nelle loro case. Siamo in una fase molto difficile con loro, questo passaggio dalle vecchie abitudini alle nuove. Vi dico che i selvaggi erano più facili da gestire di queste persone semicivilizzate. In realtà è impossibile. Ho mandato mia moglie e i miei figli a sud." "Perché? La scuola qui non è buona?" chiesi. "Non posso permettere che i miei figli si mescolino con gli indiani." Fece una lunga pausa, poi riprese: "Voglio chiederle di cercare di usare la sua influenza su Luisa e suo marito per mandare i loro figli al collegio industriale per indiani. Lo farà?" chiese il parroco. "No," risposi. Il missionario e sua sorella mi guardarono attraverso gli occhiali con occhi da pesce. "Perché non lo farà?" "Nella casa di Luisa ora c'è un figlio adottivo, un ragazzo pigro e detestabile, risultato di una scuola industriale indiana che si vergogna della sua eredità indiana. Tutti i figli della numerosa famiglia di Luisa sono morti, tutti tranne questi due ragazzi e non sono robusti. Luisa sa come prendersi cura di loro. C'è una scuola nel villaggio. Può mandarli lì e mantenerli e far loro da madre durante la loro breve vita. Perché dovrebbe rinunciare ai suoi ragazzi?" "Ma i vantaggi?" insisté il missionario. "E gli svantaggi?" insistetti io. Luisa ed io ci sedemmo accanto ai fornelli della cucina. Joe, il figlio più piccolo, le si era buttato in grembo per calmare un mal di denti. Le sue guance erano magre e troppo arrossate. Luisa disse: "Il missionario vuole che mandiamo i nostri ragazzi a scuola." "Lo farai?" "Forse è Jimmy. È forte e molto brillante, ma non questo. Non ho mai visto occhi più luminosi di quelli del tuo Joe." Luisa strinse forte il ragazzo. "Non dirmi questo. Dicono che gli occhi lucidi e le guance rosa significhino. Se fosse tuo figlio, Emily, lo manderesti a scuola?" "No," risposi decisa.